excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Eccoci, sono tornate le ribelli, buongiorno. Buongiorno a tutti, siamo tornate come sempre. Tutte le domeniche, puntuali più o meno, no, oggi siamo state anche abbastanza puntuali se non contiamo il fatto che ne manca una all'appello. Eh sì, sta arrivando. Ma perché Milano è sempre caotica, è sempre Milano, quindi... Altrimenti non sarebbe Milano, giustamente. E niente, nuova puntata delle Ribelli, 21 febbraio 2021. Sembra un anno fa che abbiamo cominciato, anche se Ibna è una delle nostre nuove partecipanti. Quindi grazie mille di nuovo per l'invito, è veramente un onore rivelarsi le domeniche di questa forma, quindi vi ringrazio e mando sempre un caro saluto ai teatranti del mondo. Giustamente, la tua cerchia di... come si dice? Simili. Sì. No, bello, bello, un bel gruppetto ormai, siamo cresciute tanto in un anno. Sì, esattamente caspita. Un anno fa più o meno di questi tempi cominciavamo, proprio sotto inizio pandemia, e infatti tra poco faremo il compleanno. Ci sarà una bellissima puntata speciale, esatto. Un anno delle Ribelli. Esatto. Allora, oggi parleremo di un libro molto speciale, faremo una presentazione un po' diversa dal solito, e non sarà molto anche improvvisazione, lo diciamo subito. Sì, così avvertiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che devono partecipare oggi. Quindi ricordiamo oggi, sì, subito i canali. Ivna, tu li hai imparati? Sì, vediamo. Vai, vai, io metto sempre alla prova. Sono, come dice Tecla, la maestra pronta a bacchettare. No, non è vero. Allora, vai. Potete seguirci su Instagram, giusto? Sì. Io sono la meno connessa di tutti ufficialmente, anche su Facebook. E qua, finalmente, grazie mille. Sì, c'è un po' di... c'era un po' di... Brugir. Di brugir. Eccola, è arrivata la ribelle mancante. Ciao Andrea. Ciao Andrea, benvenuta. Ciao a tutti. Ciao a tutto. Allora, sì, Instagram, le... trattino basso, ribelle, trattino basso, ZAM. Ok. Se ci volete vedere un po' cosa combiniamo, se ci volete anche scrivere, rispondiamo lì. Poi c'è Facebook, brava. Radio ZAM, anche lì ci potete scrivere durante la diretta. Siamo collegate anche attraverso Facebook. Mi raccomando, non abbiate paura di interagire. Non vergognatevi, siamo pronte. Poi c'è il canale Telegram. Ah, ecco, questo mi mancava. Non ti puoi guardare perché ce l'ho qua davanti agli occhi. Chiocciola Radio Zam trattino basso chat. Quindi state pronti, tra poco introduciamo tutta la tematica, il libro e la persona che ce lo introdurrà e ce ne parlerà. Mi raccomando, rimanete connessi e pronti a scrivere. Intanto vi mandiamo un'altra canzone. Oggi abbiamo fatto una playlist cercando di seguire un po' la tematica, insomma oggi siamo un po' cimentate, vediamo un po' che cosa è uscito. Intanto vi facciamo ascoltare Nina Simone, To Be Young, Gift and Black. Eccoci qua, tornate, spero vi sia piaciuta la canzone, a me piace molto Nina Simone in generale e quindi oggi volevo un po' approfittarne, visto che ho fatto un po' della playlist. Allora, grande, oggi parliamo grande. Oggi parliamo di educazione, in realtà. Sì, è vero, parliamo... è vero, questa è la tematica di fondo e in realtà non è da dare per scontato perché alla fine ci sono vari metodi educativi e riuscire a portare nuove forme educative e soprattutto educare alla libertà. Mi piace molto questo che riprende molto in questo libro che appunto prenderemo e ne parleremo. Associato anche a varie tipologie di pedagogia, perché alla fine noi nasciamo da questo e cresciamo da questo, quindi bisogna anche avere il coraggio di questionare l'educazione. Esatto, esatto. Noi condividiamo, ci sentirete magari doppie perché condividiamo il microfono oggi, siamo molto carine. Allora, noi abbiamo ricevuto una bellissima proposta recentemente dalla casa editrice Meltemi, niente meno, che ci ha contattate per poter parlare insieme, presentare, divulgare un pochettino anche attraverso i nostri canali e la web radio il testo Insegnare a trasgredire di Bell Hooks. E infatti oggi è qua con noi Rael, una delle curatrici dell'ultima edizione di, appunto, del testo Insegnare a trasgredire, e insieme a lei oggi parleremo un pochettino, leggeremo soprattutto. Ciao Rael, benvenuta. Benvenuta. Ciao, ciao ribelli, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, è bello trovarsi, anche se un po' da lontano e un po' con questa sempre tecnologia di mezzo, però devo dire che riuscire comunque a trovare un ponte per soprattutto approfondire queste tematiche. Quindi io ringrazio tantissimo Meltemi e anche Rael ovviamente per essere qui presente con noi, perché è veramente bello poter parlare di questi testi, di queste tematiche. Assolutamente. E soprattutto in questo momento. Ma Rael, vuoi sapere una cosa curiosa? Sai che io avevo parlato di questo libro tipo 3 settimane prima. Sì. Di... È vero. Ho detto: ragazzi, ho trovato sto libro, dobbiamo prenderlo, dobbiamo leggerlo, così. E poi invece siete arrivati voi con grande gioia. Sì. E quindi vi ringraziamo molto per il lavoro che avete fatto e niente, entriamo nel vivo di questa discussione, insomma. Beh, innanzitutto grazie a voi, nel senso che non ha comunque scontato decidere di presentare il libro e di farlo soprattutto in radio. Mi sentite bene? C'è un po', mi sa, di fruscio sotto, sì. Però mi sa che non è una cosa che si può togliere, gestire. Vabbè, tu vai, allora, quindi si sente. Oh, perfetto. Grazie. No, però non sentiamo più niente. No, infatti non sentiamo più lei. No, così era il nostro... Sì, meglio? Ah, ora sì, meglio. Meglio, molto meglio. Perfetto. Vabbè. Ok, erano le cuffie, evidentemente l'attacco... La tecnologia non ci assiste sempre. E niente, quindi insomma, ringraziamo anche voi, perché è una buona opportunità, nel senso di parlarne e di parlarne anche, insomma, attraverso un altro linguaggio che è appunto quello che veicola la radio. E, che dire, la proposta è arrivata dal gruppo Ippolita, che cura la collana Culture Radicali di Meltemi. Sì. Ed è arrivata a me e a Magda, che è l'altra curatrice insieme appunto al gruppo Ippolita, ed è stata una richiesta preziosa perché Bell Hooks è un'autrice non molto conosciuta, anche se l'anno scorso, perché sono usciti entrambi nel 2020, è uscito anche un altro libro di Bell Hooks, che era già uscito, insomma, per Feltrinelli, ma che è stato rieditato da una piccola casa editrice napoletana, TAM, che è, diciamo, uno dei testi con cui Bell Hooks è stata conosciuta anche in Italia, Elogio del Margine. E quindi, come dire, il 2020 ha regalato, diciamo, a noi in Italia due traduzioni appunto preziose di un'autrice, un'intellettuale attivista femminista afroamericana, che appunto attraverso la sua esperienza in questo libro interroga il ruolo dell'educazione e il ruolo dell'educazione come pratica di libertà. Ho sentito prima che facevate un riferimento mentre andava la canzone di Nina Simone a Freire, e Freire è uno degli insegnanti, diciamo, citato, a cui è dedicato un intero capitolo nel libro. Freire con la sua pedagogia degli oppressi sì, infatti. E con la sua intuizione di costruire comunità educanti. Questo perché per valorizzare anche il protagonismo degli studenti e delle studentesse e quindi non concepire l'educazione come, come dire, una pratica di subalternità e non di, di liberazione, mm-hmm. in cui quello che vale in termini di relazione è la gerarchia, no? Sì. Allora questo passaggio Belux lo fa facendo riferimento all'importanza dell'esperienza, mm-hmm. Ed è insomma molto, molto importante. Ovviamente l'esperienza è un fatto connotante anche rispetto al, alla sua comunità di riferimento, mm-hmm. la comunità afroamericana, che è appunto insomma una comunità che ha lottato non poco contro, diciamo, una cultura che li voleva ancora schiavi anche nel Novecento. Lei è una delle autrici che, come dire, per prima ha indagato le connessioni tra genere, classe e razza, e proprio il portato esperienziale è quello che le consente di riportare al centro l'esperienza del margine, no? Mm-hmm. Del margine inteso come delle comunità marginalizzate e quindi della sua comunità di riferimento, che è appunto la comunità afroamericana. Mm-hmm. È una pratica che lei impara dalle scuole, scuole che quando lei era bambina erano scuole segregate, mm-hmm. Quindi scuole per i neri, mm-hmm. In cui le insegnanti, lei racconta, erano consapevoli di avere un ruolo legato all'emancipazione dei ragazzi, quindi l'educazione era una pratica rivoluzionaria, appunto di liberazione da uno stato di oppressione. Certo. La segregazione non era ovviamente uno spazio fisico esclusivo dell'educazione, quindi della scuola, non c'erano solo, come dire, le scuole divise per bianchi e neri, ma appunto anche lo spazio fisico della città. Mm-hmm. Tant'è che nel passaggio che lei racconta alle scuole desegregate, quindi alla fine della segregazione, lei racconta il dolore di questo passaggio, un dolore che, come dire, marginalizza ulteriormente, mentre invece di essere, come dire, un momento di effettiva liberazione, è un momento che i ragazzi e le ragazze nere pagano, perché devono arrivare prima, mm-hmm. Per evitare che la loro presenza crei conflitto, e quindi è come se, come dire, il peso della desegregazione, invece che essere distribuito nelle varie componenti sociali, ricadesse nuovamente sulla componente nera, appunto. Mm-hmm. È ovviamente uno spaccato della società americana, però io credo che racconti molto anche oggi in Italia e all'Europa, e per questo penso che sia un testo prezioso insieme a Elogio del Margine, proprio perché credo che sia un testo attraverso la cui lettura la componente, diciamo, immigrata, non solo la componente nera della società italiana, può scoprire pratiche di liberazione, ma anche perché la scuola può valorizzare l'aspetto multiculturale, che oggi è evidente più che altro, una costante, no? Nelle classi. Io posso dire, visto che cioè, non sono anziana, non sono neanche giovanissima, di essere stata una di quelle che ha fatto le scuole essendo l'unica nera nella propria classe, questa cosa in tutti i cicli scolastici, questa cosa oggi non accade. No, infatti però me ne rendo conto io adesso, appunto, essendo una prof, me ne rendo conto, le classi sono molto più omogenee, non so come dire, e soprattutto non si sente questo peso, è più una, ma proprio tra di loro non ci sono più le differenze. Non c'è più questa differenza. Però quello che io trovo molto interessante, che sottolinea anche Hooks, è proprio di dare valore alla personalità del singolo individuo, e di conseguenza qua si fa un passaggio all'ulteriore, secondo me, perché si sottolinea appunto questa non dover parlare alla classe come entità, non so, come gruppo di riferimento dove c'è solo un singolo livello e una singola personalità, e invece andare a capire come comunicare con ognuno, cercando di valorizzare appunto il meglio di, esatto, sì, la diversità di e persone. Anche la differenza tra di loro. Io lo trovo estremamente bello, anche questa volontà della rottura, del mettersi nell'essere superiore del prof, non so come dirlo, questa rottura dell'autorità, ecco. Sì. E l'insegnamento di non aver paura di esprimersi, secondo me, appunto, ampliandolo nei giovani di oggi, che comunque hanno avuto, soprattutto anche noi come generazione, abbiamo avuto un trauma legato a proprio l'esprimere noi stessi. Questo secondo me è un ottimo modo dove dire ok, rivoluzioniamo questa cazzo di insegnamento che rimane così, posso dire cazzo, sì. Soprattutto se inserito in questa frase, direi che va benissimo. Dai. Infatti direi che è proprio necessario essere attenti alla visione che incorpora l'educazione, no? Di autorità, di unità, di come dire, potere stabilito, ecco. Non corrisponde a, come dire, anche a questo femminile che va ad includere, piuttosto che centralizzare la figura di potere davanti a una moltitudine che non può esprimersi, che deve comunque obbedire a quello che sta essendo posto e non questionare, cioè non chiedersi perché, ma nemmeno di una forma, come dire, sì, come se ci fosse un'aspettativa a priori di quello che le persone devono essere e diventare, prima ancora di valutare l'individualità di ogni singolo. E secondo me questo sta creando sempre più divario tra l'insegnante e gli alunni, perché più andiamo avanti più questa cosa è necessaria, soprattutto penso poi oggi ancora nel social, cioè è molto applicabile questo tipo di pedagogia, cioè da questo tipo di pedagogia possiamo imparare come educare al meglio e gestire meglio. Sì, infatti anche Freire, appunto, quando ne parla nel libro, sì, e Freire appunto lui diceva proprio questo: abbattiamo l'autorità per arrivare alla libertà e tirarci fuori in questo e creare delle comunità. Questa è la grande sfida. La comunità classe, ok? Sì. È estremamente bello, leggere questo, cioè qualcuno ha teoria che ci dice proprio questo. Diciamo, ok, c'è qualcuno dalla nostra parte. Sì, finalmente. No, perché effettivamente la struttura scolastica, soprattutto italiana, è un po' old style, un po' vecchio. Sì, no, ma secondo me l'educazione nel mondo sta in un momento di cambiamento molto prezioso che deve essere colto in questa chiave, sì, no? Sì, e poi anche lei parla della pedagogia tramite l'entusiasmo e il divertimento. Quanto rivoluzionare questa donna, grazie. No, per me è stato, cioè, i brividi, perché dice finalmente qualcuno che vede un metodo differente, sì, e che vuole appunto andare a togliere quell'ansia. Ragazzi, cioè in classe i ragazzi hanno un'ansia della Madonna, proprio, sì, ma pesantissima, sì, e quindi non si tirano fuori. Io sono stata una di quelle, una capra a scuola, no. È vero. Non siamo incentivati a dare il meglio di noi, ecco, c'è sempre anche l'aspetto della competizione intrinseca all'aspetto scolastico che ti fa oppure scegliere di competere in una maniera che non è istruttiva per la comunità classe, no? È istruita per quello è quello che sa tutto, quello invece è quello che non sa niente, e si creano anche delle dinamiche che tante volte non integrano tutti. Esatto, grazie. Sì, sì, cioè, sì. E no, ma anche manca. Per dire, anche chi ha problemi con disabilità o altro, non ci sono effettivamente, cioè vengono esclusi molte volte perché non c'è una reale capacità di attenzione, di dare tutela, insomma, e maggior aiuto o interesse, insomma. Sì. Tu... Che ti dice? Abbiamo fatto bene i compiti, abbiamo studiato bene. siamo state brave. Mi piace questo entusiasmo. Nel senso che, appunto, è una delle categorie a cui ricorre abbastanza spesso Belux, no? Nel senso, fa sicuramente riferimento al dolore, allo spaesamento, anche rispetto alla difficoltà di apprendere nuovi codici, no? Però quello che dice e che invita a fare è appunto anche quello di riscoprire la dimensione del piacere, mm-hmm. Oltre, diciamo, alla fisicità, no? Mm-hmm. Perché questo è un altro dei limiti rispetto a come viene intesa la figura del docente, che è insomma un ruolo senza corpo, no? Ed è, io credo, molto interessante, soprattutto in questa fase, che è, come dire, una fase particolare non solo per la storia d'Italia, ma per la storia del mondo, in cui gli interrogativi sulla pedagogia sono pressanti, no? Nel senso, i ragazzi in quest'ultimo anno hanno trascorso la maggior parte del loro tempo virtualmente, cioè facendo appunto didattica a distanza, e questa cosa ha sicuramente depotenziato la loro capacità anche di mettersi in relazione con l'apprendimento, l'insegnamento e i docenti anche attraverso il corpo. Sì, questo è una mancanza di quest'anno, purtroppo, questa fisicità mancata anche. Sì, sì, c'è sempre più distanza, insomma, tra loro e anche mentalmente nella percezione di quello che dicono e fanno. È un po' difficile da gestire. E soprattutto c'è un calo di interesse legato alla scuola. E quindi secondo me, appunto, no, a parte l'entusiasmo eccetera, secondo me questo è un ottimo modo per riattivare quello che è, insomma, nel momento dove si annoiano tutti, sono sempre chiusi, non hanno possibilità, dare la possibilità di anche insomma apprendere tramite il divertimento, la passione, l'entusiasmo, diventa quindi importante perché riattivi qualcosa in loro. E adesso sono annoiatissimi. Anche noi. No? No, questo è vero, è vero. Cioè, secondo me... loro. Sì, sì, c'è bisogno proprio di nuovo dare, come anche diceva Freire e Hooks, dare speranza pure, no? Cioè, Freire ha scritto anche un libro che è tradotto all'italiano, La pedagogia della speranza. E effettivamente anche dare questa visione dell'educazione come un'opportunità di interagire tra persone, no? E di crescere, ma non soltanto a livello intellettuale, puramente razionale, ma come comunità. Una volta che vediamo anche questo dolore, capiamo cosa sta succedendo, cioè con dialogo, in questo senso, no? La reciprocità. Esatto. E l'empatia. Esatto, l'empatia. Qua partono cuori belli, perché non ci potete vedere.

Oggi sono simpatica, sono carica. Oggi siete frizzanti, posso dirlo. Siete belle cariche per la puntata. Voi due come coppia non eravate ancora state mai, a radio. Mai. Già ridano. Allora che siete un bel duo. Oh, però bellissimo, però scoppiettante, oserei dire. Brave. Grazie, mi piace. Grazie, grazie. C'è bisogno di un po' di frizzantezza la domenica. Assolutamente, soprattutto per tematiche così importanti. Esatto. Sì. Vai, iniziamo il gioco allora. Iniziamo. Chi dà i numeri? Vai. Tre. Ivna, tre. No. Ok. Pagina tre. Ok. Siamo sulle introduzioni. Tre. No, è troppo facile. 35. Vai. Vai, uniamo il 35, vediamo. 35. Tombola. Ho fatto ambo, io ho già fatto ambo. Ambo. Va bene. Allora, 35. Nell'accettare la professione di insegnante come destino, ero tormentata dalla realtà delle lezioni che avevo seguito sia come studente universitaria che come specializzanda. Alla stragrande maggioranza dei nostri professori mancavano le competenze di base della comunicazione. Non si sentivano realizzati e spesso usavano la classe per inscenare rituali di controllo che riguardavano il dominio e l'esercizio ingiusto del potere. In questi contesti ho imparato molto sul tipo di insegnante che non volevo diventare. Alla scuola di specializzazione ero spesso annoiata in classe. L'educazione depositaria, basata sul presupposto che memorizzare informazioni e rigurgitarle rappresenti l'acquisizione di conoscenze che sono dunque depositate, archiviate e utilizzate in un secondo momento, non mi interessava. Volevo diventare una pensatrice critica. Tuttavia quel desiderio era spesso considerato come una sfida all'autorità. Lo studente bianco, considerato eccezionale, era quasi sempre autorizzato a tracciare il proprio percorso intellettuale, ma dal resto di noi, in particolare dagli appartenenti ai gruppi marginalizzati, ci si aspettava che ci conformassimo. Il non conformarsi era visto con sospetto, vuoti gesti di ribellione volti a mascherare inferiorità e lavoro scadente. Questo passaggio è un passaggio, direi, abbastanza importante, no? Beccato così. Perché appunto Belux, che è anche un insegnante, capisce attraverso l'apprendimento che riceve, l'insegnamento che riceve, quello che non vuole essere quando sarà insegnante. Proprio per le cose a cui accennavamo prima, la volontà di non esercitare attraverso il proprio ruolo una relazione gerarchica. E quindi anche non disincentivare, non sminuire, non svalorizzare il tentativo di studenti e studentesse di imparare, di essere non solo critici, e lei introduce anche questo aspetto, ma di essere desiderosi di imparare, perché questo desiderio non può essere concepito come un atto di lesa maestà nei confronti del ruolo dell'insegnante, ma piuttosto deve essere letto come desiderio appunto di apprendere, e valorizzato, non stigmatizzato, come invece lei ci racconta avveniva. Certo. Io non so se però è un'esperienza abbastanza comune, no? Nel senso, quando si propone a un docente di uscire fuori dal seminato, no? Uh-huh. E quindi di guardare ad un evento che ci racconta con un altro punto di vista, che è il punto di vista ovviamente di uno studente, quindi sicuramente di qualcuno che non ha il livello di conoscenza che ci si aspetta abbia un docente, e non sempre è così. tra l'altro. Però è sicuramente, come dire, l'indizio di, del tentativo di guardare ad un tema da un altro punto di vista. Mm-hmm. E questi tentativi sono, insomma, spesso osteggiati da, dai professori, perché insomma li ritengono una perdita di tempo. Segui quello che sto dicendo io, no? Ed è sicuramente una sfida, nel senso, anche perché poi io non so, mi sento anche di spezzare un po' una lancia nei confronti dei docenti che sono appunto costretti comunque a seguire il programma e dover arrivare entro la fine dell'anno. Questo benedetto programma, aver fatto tutto. E lì, ecco, io credo che appunto questo modo di concepire la classe e l'apprendimento all'interno della classe probabilmente può essere messo a critica, proprio con l'obiettivo di valorizzare anche il protagonismo degli studenti, la loro, diciamo, la loro voglia di capire attraverso altri punti di vista, che possono essere provocazioni, però come dire, sono sicuramente uno stimolo, no? Se ti trovi invece di fronte ad una classe completamente silenziosa, forse è un altro tipo di messaggio. Sì. Ma se invece, come dire, i ragazzi e le ragazze recepiscono e suggeriscono altro, perché non provare a cambiare punto di vista? Certo. Però sarebbe un grande cambio. Cos'è successo? Provo a parlare, ok, mi sentite bene? Sì. Scusate, c'è stato un problema tecnico. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. No, dicevo che in questo modo si rischia anche di andare a far perdere proprio l'interesse per non soltanto la materia, ma proprio per l'apprendimento, per la curiosità. La curiosità. E secondo me si sta vedendo molto anche adesso che c'è in realtà sempre di più una perdita di interesse verso tutto ciò che li circonda o che li tocca personalmente, non mettono più in discussione niente, è come se ormai avessero rinunciato e dicono tanto tutto deve arrivare, ma mi rendo conto che anche molti di noi la vedono in questo modo, cioè mettere in discussione diventa quasi adesso sbagliato. Sì. E è quasi appunto, ormai siamo talmente abituati, siamo entrati in questa dinamica di educazione unilaterale e unidirezionale a cassettola, mi viene in mente, no? Mm. E che appunto ci stiamo perdendo via la dinamica anche emotiva dell'apprendimento e della bellezza dell'essere curiosi e di conoscere, secondo me. E guardate, lei dice... appunto non nascondendo la fatica di questo processo, cambiare le strutture esistenti è terribilmente difficile. Uh-huh. Perché l'abitudine alla repressione è la norma. Ecco, esatto. Però scusami. No, vai. No, volevo solo, poi la norma porta alla noia. E la noia è la cosa, penso, che porta più al all'appiattimento dell'anima, ma anche proprio alla, cioè è controproduttivo, non so, controproducente proprio per l'insegnamento, perché la noia porta soltanto a non imparare, ma proprio niente, sei lì che guardi fissa nel vuoto praticamente, annoiatissimo e basta. A me un po' per, cioè, parlando di questo, prendendo spunto da appunto quello che ci ha letto Rael di Bell Hooks, risuona, perché era un po' lo scopo del gioco, no, Rael? Vedere un pochettino, leggere, vedere cosa risuonava ad ogni singola persona in base alla sua esperienza, al suo vissuto. A me è risuonato subito proprio questo estratto che hai letto, la pedagogia steineriana, che pone un pochettino, un pochettino, diciamo che una delle basi è appunto l'individuo al centro di tutto, ogni singolo bambino, bambina, comunque futuro adulto è unico, irripetibile, e quindi tu come insegnante non ti puoi porre nella stessa identica maniera ad una classe di 20 individui diversi, perché non tutti recepiscono allo stesso modo, non tutti e tutte hanno lo stesso modalità e tempi di apprendimento, hanno caratteri, punti di forza e magari cose che vanno rafforzate, quindi diversi. Traumi. E tu come insegnante ti devi porre proprio nella... è una sorta di missione. È un dovere. Anche portare, perché... dare gli strumenti a questi futuri adulti per affrontare la vita. E quindi queste cose di Bellux mi hanno fatto proprio risuonare questa cosa della missione, della curiosità. È una cosa che, avendo a che fare con bambini nelle scuole materne, che vabbè, ovviamente l'apprendimento lì è ancora abbastanza basilare, però portarli al momento del passaggio in prima elementare, che hanno voglia e lo vedi che non vedono l'ora, io voglio imparare. Questo è una cosa, cioè è un regalo che a me fanno bellissimo, e vederlo e poterlo mantenere, io credo che sia una cosa veramente difficile. Gli insegnanti, appunto, è proprio per evitare questo anche appiattimento. Sì. E l'insegnante come ruolo autoritario, io non riesco proprio a capire perché. Ha quel ruolo anche maieutico, se vuoi, appunto, l'insegnante, cioè di tirar fuori dal singolo. Cioè, il bello è che, tra l'altro, è così che ci hanno insegnato in antichità, dovesse essere effettivamente l'insegnamento, quindi tirar fuori, no? Mm. E invece noi poi ci abbiamo preso, come al solito, abbiamo un po' sbroccato. No. Detto. No, dobbiamo essere autoritari, però secondo me, appunto, questo porta a un appiattimento anche creativo delle menti, di tutto. Sì, sono d'accordo. Educa la subalternità. Esatto. No, mettiamola, perché le cose, quello che mi viene da dire dei vostri discorsi è: l'educazione sembra banale, cioè è una cosa che va sempre discussa, ma non in profondità, no? Quindi non questioniamo mai veramente le basi, e tutto sembra che non c'ha un'ideologia dietro, no? Quindi il fatto di non questionare diciamo la struttura dell'educazione, o quando questioni la struttura dell'educazione, sembra che tu stai facendo una rivolta, sì, o comunque prendendo, no? Metti in discussione un sistema secolare. Esatto. Ed è ormai messo lì come se non potesse essere mai più cambiato, e come se mai è stato cambiato. Cioè, non so, secondo me abbiamo proprio questo tipo di atteggiamento verso l'educazione. Invece adesso, con le nuove generazioni, con i nuovi linguaggi, invece bisognerebbe proprio farlo, perché sì, mi rendo conto che c'è anche una difficoltà generazionale poi di dialogo, e di conseguenza, se non ci si pone in discussione, ci si chiede anche come parlare con nuove generazioni che sono sempre più distanti, secondo me, perché il cambiamento è sempre più veloce. Sì. Insomma, non è ruolo nostro, di noi educatori, insegnanti, eccetera, capire qual è il metodo per arrivare al singolo e a farlo esprimere, non dare per scontato che il metodo sia quello per tutte le persone e tutte le generazioni. Cioè, abbiamo una presunzione incredibile. Sì, sì, sì. Continuiamo il gioco. Next one, next one. Gioco. Che coenga, mandiamo ci un'altra piace? Canzone, mandiamo un'altra leggiamo canzone. Così, diamo un po' di tempo anche a chi è a casa di magari... Scriveteci trovare anche. La il respiro. La forza. E anche il coraggio di scriverci. No, dai, sa forza che siamo insieme, facciamo tutto insieme. Intanto una nuova canzone. Non si vede che siamo... I want. Yes. Tocca a me scegliere? Sì. Sì. Allora io vado sul... Non si sente? No. Cosa che non si sente? Ho aperto, mi... ci sentite? Vediamo se risponde qualcuno. No, in teoria tutto va tutto. Mi sa che ti ho abbassato troppo l'audio a te, Laura, la cuffia. Questa è la diretta delle ribelli, come al solito. Mi senti ora? Ora sì. Ti avevo abbassato troppo. Ah, ok, no, va bene, scusate, pensavamo non ci sentiste più perché non sentivamo più niente in cuffia. Va bene. No, allora, il numero è il 87. 87, vediamo che cosa ci dice 87. 87, siamo al quarto capitolo, che è il capitolo dedicato a Freire. Siamo proprio temi, per questo gioco mi piace tanto. Allora, uno dei motivi per cui il libro di Paolo, Pedagogia in cammino, è stato importante per il mio lavoro è che costituisce un esempio cruciale di come un pensatore critico privilegiato può approcciare la condivisione di conoscenze e risorse con coloro che ne hanno bisogno. Ecco Paolo in uno di quei momenti profondi. È una citazione del libro. Aiuto autentico significa che tutte le persone coinvolte si aiutano reciprocamente, crescendo insieme nello sforzo comune di comprendere la realtà che cercano di trasformare. Solo attraverso tale pratica, in cui coloro che aiutano e coloro che vengono aiutati si aiutano a vicenda contemporaneamente, l'atto di aiutare si libera dalla distorsione in cui chi aiuta domina chi viene aiutato. Nella società americana, in cui l'intellettuale, in particolare l'intellettuale nero, ha spesso assimilato e tradito le preoccupazioni rivoluzionari per mantenere il potere di classe, è fondamentale e necessario che gli intellettuali neri ribelli possiedano un'etica della lotta capace di influenzare la propria relazione con quelle persone nere che non hanno avuto accesso a modalità di conoscenza condivise in luoghi privilegiati. Allora, questo... Mi fermo qui che... wow! Momento, in questo capitolo Benux utilizza, diciamo, una tecnica abbastanza frequente nelle sue scritture, che è quella del dialogo, e il dialogo in questo caso è tra lei e come dire e lei tra lei Benux e lei Gloria Jane Watkins, cioè il suo nome originale. Parlando appunto dell'influenza che ha avuto Freire, lo chiedo a voi che cosa vi suona, così ci passiamo un po' la palla. Ok, va bene, comincio io. Vai, Ivna. No, mi suona particolarmente, ha un posto speciale nel mio cuore perché sono stata formata teatralmente parlando in Brasile e quindi dove la tecnica del teatro dell'oppresso, sponsorizzata soprattutto per Augusto Boal, che ha lavorato assieme a Paulo Freire, quindi hanno sviluppato una come dire, un teatro che educa e libera, quindi sono delle due cose assieme, quindi una pedagogia che per l'epoca e anche per quelli a cui era indirizzata era molto rivoluzionaria. E quindi mi suona particolarmente questa parte tanto del suo libro quanto di questa pedagogia, perché io fino a quel momento ho cominciato a fare teatro già da grande, diciamo così, tra virgolette, però perché non ero più un adolescente, però questa cosa mi ha liberato, cioè mi ha aperto il mondo. Cioè ho concepito per la prima volta l'educazione come possibile utilizzando metodi diversi. Cioè io imparavo su di me e sugli altri con una facilità e comunque con una assurdità molto grande, perché dicevo, ah, quindi si può fare diversamente, quindi io imparo anche se faccio di un'altra forma, perché l'educazione è impostata così rigidamente che non si concepisce un'altra forma, quindi è anche liberatorio proprio il pensare che può essere diverso, no? Quindi grazie per questo momento, liberatorio pure, grazie perché... Molto bello, molto bello. Molto emozionata, ragazzi, ve lo assicuriamo. Molto emozionata. Beh, effettivamente, cioè, sono parole profonde. Anche a me risuonano, mi ricordano un evento del mio passato, nel senso che prima lo dicevo anche a loro, io non ero brava a scuola, ma non è che non ero brava, è che proprio mi avevano spaventata, mi avevano angosciata, vivevo la scuola in maniera molto negativa. Ed è stato il momento in cui poi, quando appunto ho iniziato a leggere Freire, a capire, a studiare anche pedagogia, io ovviamente dal punto di vista artistico, insomma, è stato molto molto liberatorio per me capire che non è che noi apprendiamo non in una maniera univoca, ma appunto tramite diverse esperienze e soprattutto attraverso l'esperienza. Perché insomma, dici, ma cosa sono io, l'animale strano che imparo di più facendo? E invece poi ho scoperto che effettivamente, cioè, ci sono molte persone che hanno più bisogno di fare, di mettersi in gioco, più che lasciarsi lì, no? Nel rimanere nella teoria o nel rimanere nell'informazione e mai praticarla o dare un'applicazione in quello. Un'altra cosa che io trovo meravigliosa è sempre questa forma di appunto questo ritorno alla volontà dell'essere comune, dell'essere comunità, nel darsi una mano vicendevolmente, nell'essere nell'aiutarsi anche nell'educazione, appunto in questo caso, cioè è come se ci si autocompletasse a vicenda, ci si aiutasse a tirarsi fuori, e se questo fosse insegnato molto di più, appunto me l'ero segnato che Freire dice la rivoluzione deve essere amorosa. Sì. No? E lo trovo molto bello, cioè per creare questo mondo dove amare è più facile, lui dice, e appunto secondo me entrare in questa dimensione, questa dinamica più comunitaria, dove sarebbe anche meno, secondo me vivremmo tutti molto meglio anche se avessimo questo tipo di educazione, ricevessimo questo tipo di educazione. Ecco, a me ha fatto risuonare questo. Giulia? A me è suonato molto, sì, il concetto di comunità, che già prima, mentre introducevi un pochettino il testo, comunque anche gli altri testi di Bellux, un po' il suo pensiero, il concetto di comunità, come l'hai un po' introdotto tu, mi iniziava un po' a stuzzicare, e adesso questo estratto mi è venuto subito in mente un po' anche il lavoro che è stato fatto in questi mesi dalle brigate di solidarietà per la pandemia. Però proprio per anche andando oltre quel concetto ok, tu sei in una situazione di difficoltà, io magari un po' meno, e quindi, cioè, quindi che si crea sempre un po' quella disparità, no? Invece queste brigate vedo che sono andate ben oltre il semplice ti do una mano perché io ho delle possibilità, e mi piaceva molto questo concetto di parità in una comunità più, appunto mi viene in mente paritaria a me, però sì. È così, è così. E, cioè, mi piacerebbe molto approfondirlo, adesso mi sto molto incuriosendo, mi sto prendendo un po' di appunti perché poi andrò a leggerlo anche meglio, però credo che sia proprio un concetto a cui aspirare, proprio sempre per togliere un po' quei piedistalli, quelle autorità, quelle... difficile ovviamente, perché c'è chi non vuole assolutamente rinunciare al suo potere, ai suoi privilegi, però impotenza credo che sia una delle armi. Viene in mente adesso, forse sto facendo un volo assolutamente troppo pindarico, però viene in mente anche il Kurdistan, le comunità che tipo ma sai di che comunità che hanno creato loro. Ma pensato al Kurdistan, ti devo dire la verità. E quindi sì, cioè viene, fa pensare che partendo appunto dall'educazione, da quando si è piccoli, dalla scuola ma anche in casa, cioè un cambiamento, un'alternativa sia veramente possibile. Non sia così tanto utopico, tu dici, che quindi no, è no, realizzabile, assolutamente, nella forma... Spero. Sempre. Spero molto. L'insegnamento è sicuramente, come dire, un passaggio essenziale, no? Nel senso che... tu poi replichi quello che apprendi, per cui apprendere in una forma diversa, cose diverse, come dire, insegna ad altri a replicare altro, che non sono appunto necessariamente relazioni di autorità. Qui però c'è un ulteriore salto, che è quello in riferimento anche alla classe, no? Certo. Nel senso, lei in questo passaggio chiama in causa gli intellettuali della sua comunità di riferimento, gli intellettuali neri, perché mettendosi a servizio della propria comunità non replichino relazioni di potere, cioè nel senso che l'aiuto non può essere una forma per ricostruire una relazione di potere, no? Perché altrimenti non è liberatorio. Eh sì. No. E da questo punto di vista io credo appunto che il volo di Giulia fosse molto molto pertinente, no? Nel senso che è un riferimento al mutualismo, cioè ha la capacità di non rappresentare l'altro in quel momento, in quella fase della propria vita, in stato di necessità, come, come dire, un perdente, no? E di non farlo in un modo in cui, cioè, questa cosa serve a te che aiuti per appunto affermare una tua condizione di privilegio. Non so, cioè, vi sarà capitato sicuramente in questi ultimi anni in cui insomma il tema delle migrazioni è stato rappresentato in modo ovviamente anche strumentale, però in cui non c'è stata, cioè strumentale ovviamente dalle destre, cioè per alimentare paure, però se appunto vogliamo adottare anche un approccio, uno sguardo critico, secondo me dobbiamo anche verificare qual è la nostra capacità, diciamo, di solidali, di rappresentare la relazione di aiuto, no? Molta polemica è stata fatta sulla rappresentazione del white savior, no? Cioè di chi, come dire, per contrapporre ad una retorica criminale che è appunto quella di Lasciateli morire in mare, replica con una retorica che rischia di essere vittimizzante, no? Sì. E quindi di inquadrare l'altro in quel momento della propria vita in stato di bisogno in una condizione di vittimità permanente. Certo. A che cosa serve questa cosa? Serve anche a affermare una propria posizione di privilegio. Allora, probabilmente se vogliamo utilizzare anche questo libro, che non parla ovviamente di quello di cui stiamo parlando oggi noi e che è scritto nel 94, come strumento anche per leggere il presente, probabilmente appunto questi voli pindarici li dobbiamo fare. Ok. Sì. Giulia è contenta. Giulia è contenta. Forse ho esagerato. Invece no. Bisogna. Poi magari io non mi reputo assolutamente una saputa intellettuale, ma ci mancherebbe altro. Quel poco che ho letto, poi per esempio anche Angela Davis parla tantissimo, fa molti riferimenti anche a Bellux. Però quando vedi appunto l'intersezionalità, come poi riesci a metterla insieme in tutte buona parte degli aspetti delle nostre vite, diciamo che ti senti un attimino ancora più caricata e dici wow, ok, allora è veramente possibile. E ti toglie quell'ansia o quell'angoscia di dire... Sì, poi ecco, ti scontri un po' con la realtà, quello che ti circonda, la società in generale. Però inizi a vedere che tutto va... Si incastra e dici ok, questo pensiero allora effettivamente sta andando in una direzione, ha una pertinenza e lei è molto felice. Perché secondo me, diciamo, lì rientriamo un po' in quello che penso io sia un po' la trappola dell'intellettuale, ecco, per parlare anche di questo ambiente. Sì, no, la formulazione delle teorie. Le teorie spesso sono distaccatissime dalla realtà. E quindi perché è importante anche vedere e dare voce al margine, come fa Bell Hooks? Per dire, diciamo, ci sono delle problematiche che sono veramente... imbricate, non puoi fare a meno dell'economia se non vedi chi sono quelle persone, quali sono i traumi subiti a livello sociale, a livello politico, e quindi anche bisogna fare i conti con questa realtà, no? Quindi penso che in generale adesso siamo tutte contente perché finalmente vediamo una teoria che si adegua alla realtà anzi è una teoria che parte dalla pratica per dire cambiamo questa realtà, no? Allora, cioè... per me è anche non so come dire, appunto uscendo da questo dal mondo dell'intellettuale, ok, o comunque noi magari parliamo molto di questo, quindi siamo dentro questa dimensione. Vedere come però, cioè per dire, all'interno di una scuola, al di fuori di Milano, al di fuori di tutto questo, sembra che noi parliamo una lingua completamente diversa e non assolutamente considerata dalla maggior parte delle persone, e questo bisogna comunque considerarlo, perché comunque tu non puoi importi con un linguaggio estremamente radicale o sovversivo, perché non cambi le cose in questo modo, secondo me, ma entrando, lavorando all'interno e quindi capire anche la dimensione nella quale si sta vivendo proprio e scontrarsi, ahimè, su con le realtà, perché se fosse possibile vivere come noi pensiamo, penso l'avremmo già fatto così. Sì. Ma purtroppo non è così, ci sono tante cose, però vedere che c'è un fermento di un certo tipo di pensiero è sicuramente... ti va a togliere quella, dire ok, non sono l'unica, va bene, continuo. Sollievo. Con un toro. E vado avanti. Esatto, sollievo proprio. No? Cosa dite, mandiamo un'altra canzone, poi dai, leggiamo un altro estratto? Yes. Via, la prossima tune. Questa era per la Gia. Ciao Gia. Dai. Turn it louder a little bit.

Ogni volta che gli studenti mi comunicano la sensazione che le mie pratiche pedagogiche li stiano mettendo a tacere, devo esaminare tale possibilità in modo critico. Anche se fosse riconosce a malincuore che il racconto dell'esperienza in classe può avere implicazioni positive, tale ammissione è abbastanza condiscendente. Citazione: sebbene la verità non si identifichi con l'esperienza, non si può negare che proprio l'idea di questi due aspetti che questi due aspetti coincidano, che spinge molti studenti, che forse altrimenti non parlerebbero, a partecipare attivamente a quelle discussioni che percepiscono come personali. L'autorevolezza dell'esperienza, in altre parole, non funziona esclusivamente per mettere a tacere gli studenti, ma anche per dare loro modo di esprimersi. Come possiamo mediare fra gli estremi della narrazione conservatrice dell'esperienza come fondamento della conoscenza onnisciente e l'immenso potere di questa narrazione, in grado di consentire e incoraggiare la partecipazione degli studenti? Tutti gli studenti, non solo quelli di gruppi marginalizzati, sembrano maggiormente desiderosi di partecipare attivamente alla discussione in classe quando la percepiscono come personale. Il fatto che gli studenti non bianchi discutano in classe esclusivamente quando si sentono coinvolti attraverso l'esperienza non è un comportamento anomalo. Gli studenti possono essere preparati su di una materia in particolare e tuttavia essere inclini a parlare con maggiore sicurezza se tale materia si collega direttamente alla loro esperienza. Ancora una volta va ricordato che ci sono studenti che possono non sentire il bisogno di riconoscere che la propria partecipazione entusiasta è stimolata dalla connessione di un determinato argomento con l'esperienza personale. Questo è un altro passaggio importante, perché cioè, introducevamo all'inizio, no, l'importanza per quest'autrice dell'esperienza, del passaggio dell'apprendimento attraverso l'esperienza personale, per cui lei rileva delle criticità ed è, diciamo, anche una delle critiche che, insomma, che le è stata mossa da una parte del femminismo, no? Cioè quello di limitare l'esperienza della conoscenza all'esperienza, al racconto dell'esperienza personale. Che cosa mi suggerisce? Ci vuole sentire, ragazze. Ci vuole sentire. Chi è che inizia? Chi parla? Vai, inizia. Vai. Vai. Oh mio Dio, vabbè. Allora, io su questo passaggio mi viene da dire quanto, di nuovo, rivoluzionaria è la pratica di metodologie alternative a questo autoritarismo che centralizza la discussione sempre su questo sapere autocentrato che dà il prof, no? Come se non ci fosse mai niente da prendere dallo studente, come se il prof o il professore o comunque la figura di autorità non potesse imparare da quella condivisione, perché lì tu vedi l'educazione come un qualcosa da condividere, no? E quando è una condivisione tutti sono allo stesso livello, perché tutti possono dare qualcosa. E quindi io mi... Cioè, l'impressione che ho di questa diciamo, limitazione dell'esperienza, della conoscenza, cioè, la racchiudo in questi professori o comunque in questa istituzionalizzazione dell'educazione così grande che tu non permetti di fare agli esseri umani che siano umani, ecco. Cioè, tu non riconosci l'umanità di quegli studenti e nemmeno la tua, perché ti trasformi un po' in un appunto in un dio, in un ogni potente, no? Con che racchiude sia la conoscenza che l'esperienza. Quindi questo passaggio mi tocca di questo modo, e vorrei anche aggiungere riguardo a quello che stavamo anche discutendo all'inizio, proprio questo mettersi in gioco sia dell'insegnante che o comunque dentro le classi, no? Perché quando ti metti in gioco, di nuovo partiamo dalla condivisione. Quindi guarda, tematica super al cuore, e di nuovo il libro ci parla, secondo me è una magica pure di vedere come approcciarsi a queste parole anche giocando con la conoscenza, no? Perché ogni tratto, se lo leggi di una forma diversa con altre persone, hai anche un'intuizione diversa. Anche gli stimoli diversi, sì. Io a me ha fatto riflettere su questa duplice insomma considerazione dell'esperienza, nel senso sia da un punto di vista appunto dell'esperienza in sé, nel senso del fare e quindi mettersi in gioco, ma anche la problematica di soggettivare tutto, quindi percepire ovviamente l'informazione nell'esperienza soltanto se abbiamo questa sorta di protagonismo, e quindi questo effettivamente, non ci avevo pensato, potrebbe diventare la problematica del metodo esperienziale, nel senso che diventiamo poi egoriferiti, sì. non so come dire, quindi riuscire a trovare il metodo per bilanciare questa sorta di doppia capacità dell'apprendimento tramite l'esperienza, no? Però senza andare troppo a... perché effettivamente ho ragionato, se noi ogni cosa che... ogni stimolo facciamo riferimento di questo stimolo a qualcosa che ci è successo, non andiamo più a elaborarlo come qualcosa di nuovo, ma facciamo sempre un riferimento al passato. No, non so se è chiaro quello che sto dicendo. Sì. Secondo me è chiaro, però è normale, credo, anche nella vita un po' di tutte le persone, fare riferimento a quella che è stata la propria esperienza. L'importante è fare in modo che sia una chiave di lettura per rielaborare il presente al limite, appunto, sì, quello che deve anche ancora succedere. Il rischio di non dire è già fatto, è già, cioè, insomma, quello deve diventare il pretesto per mettere in discussione e ragionare attorno adesso. Non l'ho già visto, ok, ho capito questo. Cioè, perché secondo me molte volte la problematica, sì, è questa, perché dici sì, vabbè, ma come le titoli di giornali, no? Che non entri mai effettivamente poi nella profondità del insomma di quello che ci sta succedendo, perché diamo per scontato, appunto. A me ha fatto un po' riflettere su questo, anche se io trovo che il metodo educativo tramite l'esperienza sia estremamente efficace. Sia estremamente efficace proprio perché non solo ti porta a tirar fuori la tua personalità, ma anche ti porta a vedere le cose da quei punti di vista diversi di cui parlavamo prima, e appunto, quindi toglie la timidezza, toglie la paura di affrontare momenti negativi, perché l'educazione secondo me non deve essere soltanto relativa a quello che è la materia o il programma eccetera, ma è una palestra di vita. Di conseguenza l'educazione ti deve anche aiutare a essere pronta ad affrontare ogni aspetto della quotidianità, della vita, anche come affrontare i problemi. Se tu hai paura di fare un'interrogazione o di esprimere il tuo te stesso, insomma, diventa poi una problematica sociale, secondo me. Questa è l'idea. Allora, io non so, provo a rispondere a questa criticità appunto legata all'essenzialismo, no? Rispetto al ruolo dell'esperienza, con un paio di passaggi, leggendo okay. Un paio di passaggi. Bellissimo. Mm-hmm. Vai. E che tra l'altro hanno anche a che fare con alcune osservazioni che facevate sul lo scarto che spesso si vive tra teoria e pratica. Mm-hmm. E lei dice: sempre a seguire, siamo sempre nel solco della pagina 121, no? È la 123, la 124. Dai. Sto proseguendo con il sesto capitolo. E lei dice: ho insegnato teoria femminista a studenti che si arrabbiano quando la teoria non chiarisce la propria relazione con l'esperienza concreta e non coinvolge la prassi femminista in modo intellegibile. Ora invece mi sento turbata dall'autorevolezza dell'esperienza, virgolettato, profondamente consapevole del modo in cui quest'ultima venga usata per zittire ed escludere. Eppure ho bisogno di dire, di articolare in modo affermativo la particolarità di quei modi di conoscere radicati nell'esperienza. So che l'esperienza è una modalità di conoscenza e può influenzare ciò che sappiamo, sebbene sia contraria a qualsiasi pratica essenzialista che costruisca l'identità in modo monolitico ed esclusivo, non voglio rinunciare al potere dell'esperienza come posizionamento da cui partire per basare l'analisi e formulare teorie. Ad esempio, mi irrita sapere che i corsi di storia e letteratura nera in alcuni college e università sono tenuti esclusivamente da bianchi. Non perché penso che non possano conoscere queste realtà, ma perché penso che le conoscano in modo diverso. Siamo particolarmente felici di sentire queste parole. C'è una gioia qua in studio che si taglia proprio. Sì. Non so, perché non so che tempi abbiamo ancora, perché non so se è il tempo di salutarci con una canzone o... Volevi leggerci qualcos'altro, Relle? Dai, allunghiamo, dai. Sì. Sì. E allora mi serve un altro numero. E così facciamo tombola. Esatto, tocca a voi, ragazzi. Vai, io dico 23, tu? Io, no. Sommiamo. Ah, sommiamo. E io dico... oddio, non lo so. Oh, vi dico che il libro ha 200, no, 233 pagine. 223. Vai, la 223. Capitolo dodicesimo. Saltiamo, credo, vediamo se ci siamo. Dodicesimo. Facciamo un dodicesimo. Sentiamo. Affrontare il privilegio di classe in aula. Oh, e già il titolo è leggero. Allora, talvolta gli studenti che vogliono che i docenti affrontino le differenze di classe spesso desiderano semplicemente che al centro della scena si trovino individui provenienti da contesti meno privilegiati materialmente, in modo che avvenga un'inversione di strutture gerarchiche, non una sovversione. Un semestre un gruppo di studenti neri appartenenti alla classe operaia frequentarono un mio corso sulle scrittrici afroamericane. Si presentarono con la speranza che avrei usato il mio potere di docente per marginalizzare le voci degli studenti bianchi privilegiati, non in modo costruttivo, bensì per far sperimentare a quegli studenti cosa significhi sentirsi esclusi. Alcuni di loro opposero una strenua resistenza a tentativi di coinvolgere gli altri studenti in una pedagogia impegnata in cui c'è spazio per tutti. Molte studenti nere temevano che l'apprendimento di una nuova terminologia o nuove prospettive le avrebbero alienate dalle relazioni sociali familiari. Dal momento che queste paure vengono raramente affrontate come parte di un processo pedagogico progressista, gli studenti in preda a tale ansia spesso in aula si mostrano ostili, estraniati e rifiutano di partecipare. Sovente incontro studenti che pensano che nelle mie lezioni, naturalmente, virgolettato, non si sentiranno estranei e che parte di questo sentimento di agio, la sensazione di sentirsi a casa, significherà che non dovranno impegnarsi seriamente come fanno in altri corsi. Questi studenti non si aspettano di trovare una pedagogia alternativa nelle mie lezioni, ma semplicemente riposo dalle tensioni negative che avvertono nella maggior parte degli altri corsi. È mio compito affrontare queste tensioni. E concludo qui la lettura. Ok, ok, ok. Se no andiamo avanti ore, lo leggiamo tutto. Assurdo. Anche qui molto da dire. Secondo me... No, niente, è anche vedere questa parte dell'insegnamento come un processo, no? Che è sempre inclusivo. Cioè, un po' mi sono fatta delle... Vabbè, un po' dei viaggi... Voli pindarici, ecco. Ci piacciono i voli pindarici oggi. Ci volevano, veramente. Perché, cioè, se guardiamo... non lo so, mi permetto anche per far raggiungere questo tipo di pensiero alla discussione, no? Cioè, in fondo, viviamo una contemporaneità piena di traumi non riconosciuti. E quindi questa cosa ci crea sempre degli ostacoli, no? Fra le relazioni, quindi anche il mettersi in gioco, l'essere davanti all'altro, tra virgolette, di una forma nuda, ma come si è, come esseri, non... E quindi ogni volta che parliamo di nuovo riconoscere privilegi o riconoscere... fa parte un po' del riconoscere se stessi, ma non in un senso di colpa o vittimismo, appunto, sia da una parte che dall'altra, ma proprio come riconoscere se stessi, no? In questo processo di condivisione continua, poi, e penso che come siamo attorno a insegnanti... Ma è anche la condivisione del disagio, che secondo me voleva tirar fuori proprio questa condivisione del disagio tra due parti, quindi chiaramente il privilegiato e il non privilegiato, e chiaramente dire è vero, sarebbe molto molto utile anche percepire questo disagio per comprenderlo, perché alla fine il privilegio bianco per esempio io privilegiata, bianca e tutto, posso essere da una parte ma non potrò mai comprenderlo fino a pieno, perché chiaramente non ne ho avuto esperienza, posso dire di avere avuto esperienze di discriminazione in quanto il mio genere, per la mia sessualità, ma non, insomma, rientrare appunto in quella parte dell'esperienza dove si prova anche il disagio e proprio appunto questa... È bellissimo, secondo me, questa volontà di insistere nel dover capirsi profondamente anche in questo tipo di cosa, ecco. Cioè, bello. Non so. Infatti è bellissimo. Non ho ben idea, però, come questo può essere effettivamente tramutato nella pratica. Nel senso che se io provo a pensare banalmente anche come fare esperire questo tipo di sensazione, questo tipo di... ma anche adesso allargando un po' a ogni discorso, tipo di discriminazione, far capire al discriminante il discriminato o comunque chi è parte dei discriminanti, insomma, questo è un gioco linguistico orribile che io mi sto incastrando male, però avete capito. No, è proprio la difficoltà, secondo me, poi risulta proprio questa, perché se ne può parlare fino, lo sappiamo tutti, possiamo parlare della violenza, del disagio fin quando all'infinito, ma poi è viverlo il vero problema, la sostanza è vivere questa cosa. Beh sì, in questo passaggio è particolarmente visibile il tema del conflitto. Ed è anche per questa ragione lo ripeto abbastanza spesso, perché Purtroppo io credo che da diversi decenni viviamo all'interno di un contesto sociale che tende a pacificare, no? E quindi a non riconoscere alcune tensioni di cui ciascuno di noi è portatore e portatrice. E invece in questo libro si scopre tutto il potenziale, diciamo, generativo del conflitto. E la questione, secondo me, è appunto importante, è proprio riconoscere queste tensioni, no? Come dire, dargli voce. Io non sono insegnante come voi, ma ho fatto esperienze di insegnamento informale, le sto facendo in questo periodo, e grazie ad un'associazione che si occupa di dispersione scolastica, e proprio per agevolare la presenza all'interno, insomma, la possibilità per gli studenti di andare in presenza a seguire le lezioni, insomma, in un liceo di Milano. Okay. E mi sono trovata, faccio tra le materie, diciamo, per cui faccio i GAP, gruppi di apprendimento parallelo, ho geostoria, questa materia strana che fonda due discipline che nel mio vissuto da studente erano separate. Eravamo ai Greci, Ericle, e c'era una lettura sulla cittadinanza. E quindi mi è venuto il gioco facile attualizzare. Ed è stato molto interessante perché era una classe mista. Uh-huh. E ho rilevato, insomma, una delle cose che tra l'altro sottolinea anche Belluz, che è un aspetto critico, nel senso che noi siamo educati a riconoscerci come uguali, quando non lo siamo. Parlare di cittadinanza, come dire, introducendo anche la possibilità dell'esperienza personale, ha consentito, per esempio, agli studenti, diciamo, italiani autoctoni, di sapere che alcuni dei loro compagni, pur insomma, considerandosi loro alla pari, non erano cittadini. Ed è anche questo, diciamo, fare pedagogia critica, no? Nel senso, secondo me, portare a valore l'esperienza personale, è un valore che diventa un valore condiviso, no? Certo. Wow. Aspetta, grazie mille per condividere questa cosa, perché è vero, crea un attimo di, ma come? Sì, cioè ti metti in discussione, no? Il semplice, sì, fatto che alla fine ne parliamo, ma non quasi non si vuole vedere la realtà, molti ne negano, no? La realtà dei fatti, e poi quando te li mostrano così, dici, ci rimani e dici, ma come, in che senso? In che senso? Ah, allora è vero. Ah, allora è la verità. Okay. No, sì. Bello, molto è una modalità poi molto interessante questa, anche dialogica, di presentare un libro e approfondire alcune tematiche. Sì, molto, sì, è molto interessante. Molto interessante. Anche questa è un po' maieutica, diciamo. Sì. Sì, totale. In realtà vi abbiamo fatto una lezione senza saperlo, cari. Ah. da buone prof quali siamo. Nessuno sentito. Anche giocare. Questo è. credo che possono aiutarci anche a giocare. Che scardini molto anche di solito magari questo gap che si crea tra chi presenta, chi approfondisce, chi ascolta, che sembra quasi che c'è qualcuno ovviamente per certi versi anche più titolato a farlo. Beh, tu, Raele, in questo caso sei la curatrice, quindi di sicuro avrai letto, avrai approfondito, però a volte questo non significa che non ci possa essere appunto confronto e dialogo molto bello. Poi vabbè, l'ultima cosa che hai raccontato della tua esperienza, ma ogni volta che ci penso, che mi soffermo a pensare proprio alla differenza anche di linguaggio tra parità, uguaglianza, sembra una sciocchezza così a livello, ma la differenza che invece nasconde, che noi a volte diamo un po' forse per scontata, è vero, è profonda e anche molto, cioè è una cosa a cui bisogna fare molta attenzione. Esatto. Secondo me poi va bene. No, guarda, questo aggiungo di nuovo, sono ogni tanto una come dire, un'ascoltatrice di Propaganda Live, facendo propaganda di un altro. E questo venerdì c'era Antonella Attilli, che è un'attrice italiana, insomma, ha fatto un monologo riguardo appunto questa parolina che ha detto Giulia, parità. No, cioè, è che sembra scontata, sembra ci stiamo incamminando verso, però se non punti, cioè se non fai vedere quella cosa lì, se non dai voce a quella cosa, sembra che tutto vada benissimo, mm-hmm. quando non è esattamente così, no? La cosa che diceva Vera, bisogna nominare... quando noi nominiamo le cose, quindi e poi dobbiamo esperirle, però, perché se no non e secondo me noi abbiamo dato prova di questo, nel senso che noi abbiamo appena fatto esperienza del metodo della UZ, ok, quindi vediamo che questo gioco dialogico e appunto basato sull'esperienza può portare, cioè io ho imparato tanto. Aspetta. Penso più che sembra avessero presentato, sì, devo dire la verità, quindi questo metodo funziona. Sì, ragazzi, crediamoci. Professoresse e professori di tutto il mondo, ascoltateci. Manie di grandezza delle ribelle, che sarebbe bellissimo arrivare dovunque. Beh, però ci arriveremo. Ma non è che sa più cosa dire oggi. La Merco è stranchissima. La Merco è devastata. Infatti, no, ma molto felice. Molto però felice. La felicità si condivide lo stesso. Sì. Siamo in chiusura comunque. Oggi abbiamo sforato un pochettino, però direi che ci stava. Necessario. Vedi, l'improvvisazione è andata avanti proprio fino alla fine, quindi anche uscire dagli orari ci stava. Esatto. Ti ringraziamo allora. Grazie a voi. No, grazie, Raele, anche per voi, questa. Ciao, radio, alle ascoltatrici, agli ascoltatori. Spero si siano divertiti anche loro. No, veramente. Speriamo. Ma penso di sì. Sì, non hanno avuto non so, il coraggio. Ma in realtà anche perché abbiamo parlato di tematiche un po' pesanti, quindi bisogna anche rielaborare prima di fare una domanda così diretta, secondo me, insomma. E quindi noi manderemo tutti i riferimenti della casa editrice, Meltemi, dell'edizione del libro, così potranno andare a comprarselo, a leggere e poi ragionarci su anche... Per le future condivisioni. Esatto. Sì. Grazie mille per questa anche ventata di gioco, però con tematiche molto importanti. È stato molto molto bello. Grazie davvero, Re. Grazie a voi. Ciao. Speriamo di vederci presto. E di rifare questo gioco. Va bene, buona continuazione. E noi invece lanciamo direi un'ultima canzone. Vai. E direi che salutiamo direttamente. Dai, sì. Chi ci sta ascoltando. Vi ricordiamo il solito appuntamento, la domenica alle ore 17, sempre sì, su... Tutte le domeniche su... Siamo le ribelle. Le ribelle su Radio ZAM. E questa è Beyoncé. So back up.